Siamo in collegamento con Raffaello Fellà, responsabile per il fondo degli investimenti nel Mediterraneo. Lei è italo-libico, fa parte di un'associazione per il dialogo tra ebrei e musulmani. Come vede l'uscita di Gheddafi, che ha paragonato l'ingresso, il futuro ingresso della Turchia in Europa come un cavallo di Troia? Prima di tutto, avendo avuto il piacere e l'onore di aver conosciuto Gheddafi, incontrato diverse volte, Gheddafi sempre ha un pensiero molto più profondo di quello che appare superficialmente. Nella mia interpretazione di questa definizione, un cavallo di Troia, va oltre un discorso non di minaccia o di esclusione. Non è anti-turco, ma dice che Europa o Occidente non è con questi piccoli passi che il dialogo vero si può fare, per cui è un invito a discutere a 360 gradi con tutto questo mondo insieme e non facendo delle scelte così parziali. L'11 settembre anche per lui è un segnale che il fondamentalismo è diventato di estrema pericolosità per tutto, ecco perché questa sua uscita e si può dire è più da slogan che da, ma c'è un pensiero dietro molto più allargato secondo me. Recentemente lo stesso Gheddafi si è autoproclamato come la persona che attraverso il suo gesto politico della rinuncia alle armi di distruzione di massa ha permesso la rielezione di Bush. Come vede questa nuova posizione internazionale della Libia? Lei che è italo-libico, ebreo ed è per il dialogo tra ebrei e musulmani. Ecco, io vedo in quel gesto una intelligente, coraggiosa e si può dire lungimirante decisione. Primo, ha fatto un gesto il più credibile per recuperare quello che era un po' lo stigma su cui Gheddafi non è credibile, Gheddafi è incoerente, Gheddafi. E quel gesto è fatto sì formalmente all'America, ma di fatto è un invito indiretto anche a Israele, che il confronto del conflitto generato dal conflitto arabo ebraico, israelo, palestinese, va visto in un modo nuovo. Ecco perché il suo invito a tutti quelli che hanno le armi o si stanno preparando le armi atomiche, incluso Israele o l'Iran, vuol dire che io ho avuto il coraggio di rinunziarci, abbiate anche voi il coraggio di discutere per rinunziarci, non necessariamente avere la stessa, ma questo è il vero messaggio, perché non è l'America che teme Gheddafi, suoi armamenti o altro, non ha temuto l'Unione Sovietica, non è che può temere Gheddafi, ma in effetti è un preciso messaggio a tutti i leader del Medio Oriente. Fermiamoci tutti in tempo prima degli scontri che volente o nolente ci possono imporre gli atti come il terrorismo avvenuto con l'11 settembre, perché l'11 settembre uno di quelli che l'ha interpretato in modo corretto e non è stato capito è Gheddafi, dove allora Gheddafi aveva detto io sì avevo conosciuto e aiutato Bin Laden nei primi suoi movimenti, ma poi quando è venuto da me per chiedermi il sostegno di riconquistare Vienna, l'Andalusia, la Sicilia, io non solo ho rotto con lui, ma anche ho chiesto l'arresto internazionale, che questo dice genererà la terza guerra mondiale. E che purtroppo sta avvenendo quello che aveva previsto, ma allora la Libia e Gheddafi personalmente era sotto piena sanzione, anche mediatica, per cui anche questa affermazione è caduta nel vuoto del ridicolo. Quale può essere il vero ruolo della Libia di Gheddafi nella situazione internazionale? Il ruolo dipenderà ancora da due cose. Il coraggio di Gheddafi di chiudere, di diventare il Mandela dell'Africa e il Sadat del mondo arabo. Questa è la grande chance che ha. E questo può farlo adesso che ha chiuso i conti, Lockerbie, UTE, Label, tutte queste pendenze, restituzione alle aziende nazionalizzate del petrolio, con un gesto solo, chiudere in modo onesto la questione della restituzione e giusto indennizzo degli ebrei di Libia.